Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Se siete stati a Milano, e me lo auguro e ve lo auguro, sarete sicuramente passati da via Torino, la famosa via piena di negozi che parte da Piazza Duomo e arriva fino a Porta Ticinese. Prima delle colonne di San Lorenzo, a destra, c'è una vietta, una piccola via che si chiama via Gian Giacomo Mora. All'angolo di questa via c'è un monumento particolare quasi nascosto che rappresenta delle fiamme. E c'è la targa con uno strano messaggio destinato proprio a questo Gian Giacomo Mora. Ma cosa dice questa targa? Ma soprattutto, chi è Gian Giacomo Mora? Allora, per capire il messaggio inciso su questa targa bisogna tornare indietro al 1630. Siamo a Milano, una Milano sotto la dominazione spagnola, siamo sempre in quell'angolo oscuro di Porta Ticinese. E in quell'angolo c'è una casa bassa, buia, piena di cianfrusaglie, di attrezzi strani, di fialette variopinte che spesso contengono delle cose non proprio normali, non proprio legali. Siamo nella bottega di un barbiere, una barbieria, come si diceva allora. Quel barbiere è proprio il nostro protagonista, Gian Giacomo Mora. E perché ci sono delle diavolerie di quel genere nel negozio di un barbiere? Beh, intanto bisogna dire che nel 600 e fino alla metà dell'800 il barbiere era un mestiere che mischiava vari lavori, perché a volte era anche dentista, oppure addirittura chirurgo, medico, consigliere, alchimista. E infatti questo barbiere, questo Gian Giacomo Mora, stava lavorando a un antidoto contro la peste ed era in accordo col commissario della sanità di Milano. Ecco perché questo inquilino di questa casa buia al piano terra, il barbiere del Ticinese, aveva tutte queste cianfrusaglie sparse per la sua bottega. Insomma, è un tuttofare, è un po' simile alla figura di Figaro, il barbiere di Siviglia, solo che qui siamo a Milano e lui è il protagonista della storia. Però il clima a Milano nel 1630 non è molto sereno, insomma il nostro barbiere non è uno allegro come Figaro, perché siamo nel bel mezzo di una terribile epidemia di peste, peste che era stata portata in città dai Lanzichenecchi, i mercenari tedeschi che stavano girando per tutta l'Europa, saccheggiando le città, Milano compresa, e portando malattie. Quasi metà delle persone subisce il contagio, il famoso lazzaretto manzoniano, no? E i Promessi Sposi ruotano attorno alla peste. Era il luogo di raccolta degli appestati, era vicino a quello che oggi è Corso Buenos Aires, e questo lazzaretto è stracolmo. Manzoni, nel capitolo 31 dei Promessi Sposi, racconta in modo superbo, ovviamente, la pestilenza a Milano. La peste, che il Tribunale della Sanità aveva temuto che potesse entrar con le bande alemanne nel milanese, c'era entrata davvero, come è noto. Cominciarono in ogni quartiere della città a farsi frequenti le malattie, le morti, con accidenti strani di spasimi, palpitazioni, delirio, con quelle insegne funeste di lividi e di bubboni. Morti per lo più violente, repentine, senza alcun indizio antecedente di malattia. I medici, opposti alla opinione del contagio, non volendo ora confessare ciò che avevano deriso e dovendo pur dare un nome alla nuova malattia, trovarono quello di febbri pestilenti. Miserabile trufferia di parole, perché riusciva ancora a non lasciar credere che il male s'attaccava per mezzo del contatto. Insomma, questo è un clima apocalittico da giudizio universale, e in queste situazioni di sofferenza, di emergenza, e l'uomo diventa vile, diventa timoroso, diventa meschino. La prima cosa che fa è cercare un capro espiatorio, qualcuno contro cui scagliare le proprie paure, per un male che sembra cadere direttamente dal cielo, direttamente da Dio. Ecco perché questa è una storia molto più attuale di quello che può sembrare. Il colpevole, l'autore dell'epidemia, viene identificato come un individuo maligno, misterioso, che di notte si aggira per le strade a imbrattare, a ungere i portoni delle case con un unguento pestifero, il famoso e terribile untore. Il falco e il gabbiano. siamo nel 1630, a Milano siamo nel bel mezzo di una terribile epidemia di peste. Stiamo raccontando la storia terribile di Gian Giacomo Mora, che è un oscuro personaggio milanese poco conosciuto, vittima dell'ignoranza e delle superstizioni di quell'epoca, perché la sua identità poteva essere o quella di semplice barbiere o quella di terribile untore. Eh sì, perché per le autorità milanesi e anche per quelle spagnole non c'erano dubbi. Secondo loro c'era all'interno della città di Milano uno stregone malefico, un untore appunto. Bisognava prenderlo per placare i timori e le paure del popolo, perché il problema era questo. La gente ignorante pensava che l'epidemia fosse determinata da lui, e quindi ci voleva l'uomo perfetto, e l'uomo perfetto poteva tranquillamente essere questo personaggio sempre chiuso nella sua bottega, indaffarato, sempre a contatto con queste sostanze strane. Insomma, i sospetti cadono su di lui, Gian Giacomo Mora, il misterioso barbiere di Milano. Per arrestarlo ci vuole uno straccio di prova, almeno un testimone oculare, meglio ancora una confessione. Allora ecco che entrano nella nostra storia dei personaggi: Caterina Rosa, una donnicciola del popolo, come la descrive Manzoni; Guglielmo Piazza, che invece è un potente, è il commissario della sanità di Milano, era quello che aveva chiesto a Mora l'antidoto contro la pestilenza. Ed è proprio Manzoni che ci fornisce altri preziosi elementi di questa storia nel suo saggio Storia della colonna infame, che spesso è abbinato ai Promessi Sposi in molte edizioni. Insomma, questo saggio ricostruisce minuziosamente i fatti di quella terribile estate del 1630. La mattina del 21 giugno 1630, verso le 4:30, una donnicciola chiamata Caterina Rosa, trovandosi per disgrazia a una finestra di Via della Vetra, dalla parte che mette al corso di Porta Ticinese, quasi di rimpetto alle colonne di San Lorenzo, vide venire un uomo con una cappa nera e il cappello sugli occhi. Le diede nell'occhio che, entrando nella strada, si fece appresso alla muraglia delle case e che tirava con le mani dietro al muro. Allora, soggiunge, mi viene in pensiero se fosse uno di quelli che andavano ungendo le muraglie. Dopo quella fermata, costui tornò indietro, rifece la medesima strada ed era per isparire quando fu intoppato da uno che entrava nella strada e che lo salutò. L'altro, che come depose poi, lo conosceva di vista e non ne sapeva il nome. Disse che era un commissario della sanità. E tutto questo brusio di voci popolari arriva alle orecchie del capitano di giustizia di Milano. Questo raccoglie i particolari e riferisce la sua relazione. È stato significato al Senato che ieri mattina furono unte con unzioni mortifere le mura et porte della casa della Vetra, disse il capitano di giustizia al notaio. E con queste parole, già piene di una deplorabile certezza e passate senza correzione dalla bocca del popolo in quella dei magistrati, si apre il processo. E beh, vedete com'è attuale questa storia. Quando Manzoni dice voci passate senza correzione dalla bocca del popolo a quella dei magistrati, sembra di sentire una storia di 10 anni fa. E quindi questo Guglielmo Piazza, il commissario della sanità, per colpa della testimonianza di questa donnicciola Caterina Rosa, viene arrestato. L'accusa di aver imbrattato le pareti del Ticinese, di Porta Ticinese, con un unguento pestifero. Insomma, il Piazza viene accusato di essere un untore. E ascoltiamo dalla voce del Manzoni come si è svolto questo processo assurdo e terribile, un processo nel quale Guglielmo Piazza viene accusato di essere il responsabile dell'epidemia di peste. Era insegnamento quasi universale dei dottori che la bugia dell'accusato nel rispondere al giudice fosse uno degli indizi legittimi alla tortura. Ecco perché l'esaminatore dell'infelice Piazza gli oppose non esser verisimile che lui non avesse sentito parlare di muri imbrattati in Porta Ticinese e che non sapesse il nome dei deputati coi quali aveva avuto a che fare. Vollero appunto costoro cominciare dalla tortura. Non cercavano una verità, ma volevano una confessione. Intimò dunque l'iniquo esaminatore al Piazza: che dica la verità! Per qual causa nega di sapere che siano state unte le muraglie e di sapere come si chiamino i deputati, che altrimenti si metterà alla corda per aver la verità. Se me la vogliono anche attaccare al collo, lo faccino, che di queste cose non ne so niente, rispose l'infelice, con quella specie di coraggio disperato con cui la ragione sfida alle volte la forza, come per farle sentire che a qualunque punto arrivi, non arriverà mai a diventar ragione. Eh sì, avete capito bene. Quindi la prima accusa che gli viene mossa è quella di non sapere come siano state unte le muraglie. Quindi questa era già di per sé una prima colpa. E poi c'è la frase quando Manzoni butta lì le frasi storiche: non cercavano una verità, ma volevano una confessione. E il Piazza inizialmente fa un po' lo spavaldo, ma è in realtà la tortura è una... soprattutto in quegli anni, insomma, è una tagliola dalla quale non si esce indenni. E così, dopo il canapo, che era una tortura con la quale venivano rotte le braccia e le mani, lui non ce la fa, non resiste al dolore, ammette di essere stato lui a aver imbrattato i muri di Piazza Vetra e soprattutto ammette di non aver agito da solo, perché lui non è l'unico capro espiatorio, stanno cercando un altro, e accusa un'altra persona di averlo aiutato in questa impresa. Cerca di scaricare su questa persona le vere colpe. Insomma, questo personaggio sarebbe la mente di tutto questo disegno diabolico. Come avrete capito, il nome del vero untore di Milano diventa quello di Gian Giacomo Mora, perché a Guglielmo Piazza viene detto: ma non è che è Gian Giacomo Mora? E gliel'hanno chiesto mentre gli spezzavano le braccia. Insomma, il povero barbiere del Ticinese è messo in mezzo. Lui stava lavorando a un antidoto contro la peste, diventa per tutti il pazzo satanico che nell'oscurità della sua bottega sudicia stava preparando l'intruglio malefico, la micidiale peste bubbonica. Il falco e il gabbiano. Siamo partiti da una misteriosa targa che si trova ancora oggi nel cuore di Milano per svelare un mistero, e siamo tornati indietro nel tempo. Siamo al 1630, siamo a Milano nel mezzo della terribile epidemia di peste che devastò la città. La peste raccontata da Manzoni nei Promessi Sposi, ma soprattutto nella storia della Colonna Infame, che racconta la terribile vicenda di Gian Giacomo Mora, quella a cui è dedicata questa targa. Lui, che era in bilico tra l'essere un diabolico untore, cioè quello che aveva sparso la peste, e il suo ruolo di semplice barbiere del Ticinese. Ma i giudici sono, almeno in quel tempo, sono ignoranti, sono superstiziosi, esattamente come il popolo, sono la diretta emanazione del popolino che governano. Insomma, questi giudici non hanno dubbi, sono decisi a arrestarlo. E sì, perché nel frattempo Guglielmo Piazza, il commissario della sanità, che era stato visto ungere i muri del Ticinese con questa fantomatica pozione pestifera, ha fatto il suo nome, in realtà ha fatto un nome che gli era stato proprio posto, confessandolo solo perché era stato torturato. E insomma, Gian Giacomo Mora, secondo le autorità meneghine, diventa il vero untore di Milano. Ed è tutto pronto, arrivano i gendarmi, la sbirraglia, come la definisce il Manzoni, e si sono preparati, sta per partire il blitz, caricano le alabarde, i muschietti e si dirigono in marcia verso la bottega di Porta Ticinese. Vogliono fare un arresto spettacolare, e anche qui, insomma, i paragoni con i tempi nostri si sprecano. Sfondano l'uscio e trovano questi vasi, queste ampolle, le boccette, le fialette, ma soprattutto trovano nel forno del cortiletto questa sostanza melmosa gialla e bianca che si attacca ai muri. Ecco, hanno trovato quello che cercavano, prove schiaccianti. Quindi arrestano il povero barbiere insieme al figlio piccolo e li sbattono subito in carcere. Qui comincia il supplizio e la tragedia di Gian Giacomo Mora. E inizia la tragedia di Gian Giacomo Mora, che è in carcere, accusato da tutti, non può difendersi. Torniamo alle parole bellissime, ma molto severe, del Manzoni, perché Manzoni racconta come si svolge questo assurdo interrogatorio con tortura. Fu esaminato il giorno medesimo e interrogato principalmente sulla costanza che gli aveva trovato in casa e sulle sue relazioni col commissario di sanità. Intorno al primo rispose: «Signore, io non so niente, l'hanno fatto far le donne». Per qualche tempo il dolore non gli tirò fuori che grida, compassionevoli e proteste d'aver detto la verità. Fu ricominciato e accresciuto il tormento. Finalmente disse: «Ho dato un vasetto pieno di sterco, di smoiatto, di morto al commissario, a ciò che imbrattasse le muraglie. Lasciatemi giù, che dirò la verità». E insomma, ovviamente, alla fine lui crolla come già era crollato Guglielmo Piazza, perché non resisti alla tortura e lui è obbligato a confessare il falso solo per fare smettere queste torture. Purtroppo non è che le fa smettere, le sposta più avanti, come vedremo. Insomma, confessa che è vero che ha creato lui l'unguento pestifero, è lui il tremendo untore di Milano. Insomma, la follia sta vincendo la sua partita. Nessuno ragiona in quella Milano falcidiata dalla peste, non ragionano neanche i giudici. Gian Giacomo Mora viene giudicato untore e assieme al suo compagno di sventura Guglielmo Piazza viene portato proprio lì, in Porta Ticinese, nel luogo dove esercitava il suo onesto mestiere, quello di barbiere. Sarà dilaniato, mutilato, bruciato davanti ai suoi concittadini come monito per il futuro. Ascoltiamo il testo originale di quella infernale sentenza, come Manzoni giustamente la definisce, una sentenza che condanna il Piazza e il Mora a una morte terribile. Il processo istruito contro Guglielmo Piazza e Gian Giacomo Mora, che con pestifero unguento unsero la città, e udito esso magnifico presidente, venne nella determinazione che i predetti Mora e Piazza, intimata ad essi la morte, vengano tormentati con la corda, e che sopra un carro siano condotti al solito luogo del supplizio, e per via siano morsi con le tenaglie infocate nei luoghi dove peccarono. Ad entrambi si tagli la mano destra davanti alla barbieria del Mora, e spezzate le ossa, e che la ruota si levi in alto e si intreccino vivi in quella, e dopo 6 ore siano strozzati, e i loro cadaveri siano bruciati, e le ceneri gettate nel fiume, e la casa del Mora si distrugga, e al posto suo si alzi una colonna che si chiami infame come un'iscrizione del fatto, e che a nessun più in perpetuo sia concesso di rifabbricarla. Insomma, una sentenza terribile, primitiva, torture terribili, con alla fine, dopo 6 ore di sofferenze calcolate, i cadaveri che vengono gettati, e arriva la colonna con le parole incise, e i giudici ordinano di costruirla subito dopo questo supplizio terribile, che vuole essere un monito contro il crimine e che diventa invece il monumento della stupidità umana. Qui sorgeva un tempo la barbieria di Gian Giacomo Mora, il quale, mentre la peste infieriva più atroce, sparsì qua e là mortiferi unguenti, molti trasse a morte. A memoria perpetua di tale reato, questa casa, officina del delitto, il Senato ordinò di spianare e giammai di rialzarsi in futuro ed erigere una colonna che si chiami infame. Lungi dunque, lungi da qui, buoni cittadini, che voi l'infelice infame suolo non contami. Quando gli umori del popolo prendono il sopravvento sul diritto, si finisce così. Gian Giacomo Mora viene ucciso crudelmente, però la sua morte non è vana, perché grazie a un altro milanese illustre, Alessandro Manzoni, questa morte diventa il simbolo della lotta alla superstizione e all'ignoranza. Infatti questa colonna infame eretta al posto della bottega maledetta del Mora viene demolita nel 1778 durante l'amministrazione austriaca. Al suo posto viene eretta una nuova casa. Per 227 anni, lunghissimi, come scrive giustamente il Manzoni, non c'è più nulla che rammenti né lo spaventoso effetto né la miserabile causa. E noi oggi, per parlare della emblematica tragedia di Gian Giacomo Mora, abbiamo con noi il professor Salvatore Silvano Nigro, che oltre ad essere professore di letteratura italiana allo IULM di Milano, aver insegnato alla Sorbona, alla New York University, a Yale e a tanti posti, ma ci interessa soprattutto perché ha curato per Einaudi il volume Storia della colonna infame del Manzoni. Buongiorno professore. Buongiorno, eccomi qua, buongiorno. Allora, noi abbiamo raccontato insomma questa storia che io prima ho definito emblematica, no? della superstizione, del fatto che a volte quando la pancia del popolo arriva al diritto succedono queste cose, soprattutto in quei secoli. Qual è l'importanza della figura di Gian Giacomo Mora? Ma intanto, per capire la figura del Mora, bisogna inserirlo dentro la storia della colonia infame. Certo. Ora, la storia della colonia infame viene sempre letta come se fosse un appendice ai Promessi Sposi, invece è l'ultimo capitolo dei Promessi Sposi. E lì c'è la chiave di lettura di tutto il romanzo, certo, di Manzoni. Ora, il problema è che nella colonia infame viene raccontato di un certo Piazza che, poverino, viene accusato di essere un untore, messo sotto tortura. Lui accusa il Mora, il quale a sua volta, messo sotto tortura, accusa tante altre persone. Quindi sono tutti innocenti e colpevoli nello stesso tempo. Certo. Sono innocenti in quanto non hanno fatto nulla, ma diventano colpevoli in quanto incolpano altri innocenti. Certo. È una macchina infernale. Certo. Una macchina è tremenda ed è una cosa che è presente in tutto il romanzo di Manzoni. Esatto. Dove Manzoni dice a un certo punto che quelli che sbagliano non sono colpevoli soltanto dei loro errori, ma anche degli errori a cui inducono le persone innocenti. Vero, è vero. E questa è la parabola del capro espiatorio, giudici che vogliono trovare, come dice Manzoni, i colpevoli di un delitto che non c'era. Cosa che ci può, che ci può insegnare questa storia, professore? Ma carico, il populismo, in fondo dietro i Promessi Sposi c'è anche il populismo, c'è il populismo per quanto riguarda il problema della fame, c'è, certo, il populismo per quanto riguarda il problema del diritto e del diverso. Il diverso in questo caso sarebbe presunto un tore. Certo. Ora, quando si gioca troppo con il populismo non si riesce più a far funzionare geometricamente il meccanismo della morale, della storia, della giustizia e così via. Veda, i Promessi Sposi può essere letto come un trattato narrativo di antropologia culturale. È vero, è vero. Ma un'altra cosa che mi ha colpito di questa storia è la totale mancanza del diritto, cioè non si parla di difensori, le pene che vengono inventate, venga esposto, poi toccato con carni roventi, cioè i giudici fantasiosi che inventano delle pene proprio a uso e consumo della... Ma non è che inventano delle... Perché vede, c'è tutta una polemica che Manzoni in maniera molto sottile fa con un personaggio a cui lui è molto legato, sia per motivi affettivi sia per motivi culturali, cioè il Verri. Sì. Cioè il Verri diceva che era colpa della tortura, cioè il fatto che esisteva la tortura e quindi anche nella di legge per sé, certo, la tortura, questo poteva causare tutta una serie di irregolarità giuridiche. E invece Manzoni va oltre, perché Manzoni è un moralista nel senso buono della parola. Sì. Lui dice: nonostante le leggi sbagliate, i giudici sapevano benissimo che queste persone erano innocenti, ma hanno voluto dare l'impasto all'opinione pubblica che voleva un colpevole. Certo, certo. Quindi, questa è la tragedia più grande, cioè i giudici sapevano benissimo che erano innocenti, quindi hanno utilizzato le leggi in quella direzione sbagliata, sapendo di sbagliare. Solo per l'interesse principale di quel momento, che era placare il popolo e dare al popolo in pasto qualcosa. E questo è un grande insegnamento, professore. La ringrazio moltissimo, è stato grazie molto prezioso. Lei. Arrivederci, buongiorno a tutti. Arrivederci. E insomma abbiamo chiuso il cerchio, i giudici, come ha detto il professore, sapevano che avrebbero consegnato un innocente al supplizio, alla tortura, ma l'interesse principale era quello di placare la pancia del popolo. E siamo tornati ai giorni nostri, in quell'angolo del centro di Milano dove ogni sera si accende la vita notturna della città, le colonne di San Lorenzo, insomma sono un posto soprattutto per giovani molto frequentato. inventato. Prima lì si accendevano i roghi per le streghe, per gli untori. E allora adesso possiamo avvicinarci a quella targa dalla quale ha avuto inizio il nostro viaggio, una targa che recita così: qui sorgeva un tempo la casa di Gian Giacomo Mora, ingiustamente torturato e condannato a morte come untore durante la peste del 1630. E poi c'è una bellissima conclusione di Alessandro Manzoni: se non seppero quello che facevano, fu per non volerlo sapere, fu per quell'ignoranza che l'uomo assume e perde a suo piacere. Non è una scusa, ma una colpa. E quando si abbassa il livello per stare dietro al popolo, succedono queste cose, succedono anche nell'arte, se è per quello. Adesso che avete sentito questa storia, insomma, se passerete da quell'angolo di corso di Porta Ticinese, capirete perché Milano ricorda questo suo figlio sfortunato, questo barbiere torturato, ucciso dall'ignoranza e dalla paura. Rivolgete un pensiero a questa vita così strappata in maniera atroce. Ci sono storie di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala, altre alle quali le ali sono state tagliate in maniera brusca per omaggiare qualcuno o qualcosa, in questo caso le paure di un popolo smarrito e ignorante come quello milanese del 1630. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina su radio24.it, venite a trovarci, a trovarmi sui miei, sui nostri social, Facebook, Twitter, Instagram, insomma, se volete, lo sapete, mi trovate. Ciao, a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Simona Capodanno e Alessandro Ri, produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.